più stretta della scuola, eri un'acciughina. Oggi 15 anni e piangi sola, chiusa in bagno, per la festa del tuo compleanno. Tutti i tuoi amici guardano il salotto, le altre fatte come attrici, e tu come un fagotto nello specchio non la smetti, piangi e vedi solo i tuoi difetti. Brutta, ti guardi e ti vedi brutta, ti perdi nella maglietta e non vuoi uscire più. Cresceranno i segni, chi ti prende in giro sono quei ragazzi scemi, ma quelle risatine dietro sembrano pugnali, piange ti si appannano gli occhiali e il rimmel si strucca. Brutta, ti guardi e ti vedi brutta, ti senti sola e sconfitta e non vuoi mangiare più. Che allegria di là in salotto, e nessuno si domanda dove sei. Vanno via ma io ti aspetto, con in mano questi fiori, poterti dire tanti auguri. Brutta, di nascosto ho letto il tuo dolore solitario, questo non è giusto, non lo sai che siamo amici, piangi e non ti accorgi che mi piaci, e mi piaci tutta. Brutta, lo vedi che non sei brutta, crescere sempre fuori ti aspetta insieme a me.